Anna Kuliscioff. Io in te cerco la vita. Lettere di una donna innamorata della libertà. Lorma Editore. Ad Andrea Costa, Lugano, 14 ottobre 1880 di sera. Andreino, mio angelo adorato, mi dispiace immensamente di non poter scriverti questi giorni. Prendendo la pena, la malinconia diviene così acuta che le lacrime mi soffocano. Non solo scrivere, ma neanche star seduta. Ma di tutto ciò non voglio parlartene a lungo, sia per non affliggerti vieppiù, sia perché lo puoi ben immaginare. Andreino amato, sappi dunque che vivrò dovunque sia e comunque sia, sapendo che tu m'ami più di tutto, e sopporterò nonché Lugano, ma anche la vita in un deserto. E poi noi siamo divisi non per un capriccio, ma bensì per una cagione che costituisce l'essenza della nostra vita e non vorrei mai essere io un ostacolo alla tua attività, la quale è ben necessaria adesso in Italia. Credo che potrai prendere parte anche al congresso di mutuo soccorso che si terrà alla fine del mese a Bologna, poiché si tratta di farlo come un comizio preparatorio per quello di Roma. Saffi darà una conferenza sul suffragio universale, come saprai dal secolo che ti mandai oggi, di modo che sarebbe molto utile che tu fossi intervenuto pure come contrappeso al linguaggio stereotipo mazziniano personificato nel Saffi. Oh, Andreino, ti lascio baciandoti appassionatamente. Come vorrei vivere, esserti vicino, amarti e farti sentire quanto t'amo. Verso 10 ore. La luna splende magnificamente, l'aria fresca, il tempo bello, sereno, invogliano ad andar fuori, ma andarci sola senza di te non è possibile. E tu come stai? Senti tu il dolore della nostra separazione come la sento io? Oh, Andrino amato, stai bene, lieto, lavora e pensa che verrà un giorno, uno di quei memorabili giorni. Quando ci rivedremo, abbracceremo e vivremo un po' di nuovo insieme. Buonanotte. Addio. Verso mezzodì, venerdì. Ecco finalmente una tua lunga lettera, anima mia bella. Aspetto tue lettere con impazienza e non so dirti quanto bene mi ha fatto una frase della tua lettera, cioè che non sai se potrai stare senza di me un mese. Angelo mio amato, tu m'ami. Io lo sento che tu m'ami veramente, ma ti prego una cosa. Non venire da me se non quando vedrai che la tua presenza non vi è più assolutamente necessaria. Mi basta in certe cose il tuo sentimento ed apprezzo tanto più la tua energia ed elevatezza del tuo carattere quando fai le cose, dopo aver ottenuto un trionfo sulla lotta interna dei sentimenti più intimi e sacri dell'animo tuo. Io t'amo più che mai. T'amo, t'amo con tutto l'essere mio, vita mia. Io t'amo. Tua Nina, per sempre. Ad Andrea Costa, Lugano, 23 ottobre 1880, 10 ore di mattino. No, Andreino, tu non hai ragione, né punto né poco, né di affliggerti né di dirmi che mi sono condotta in modo indegno del nostro amore nel caso di Cafiero. E te lo ripeto non solo perché gli ho fatto dire di venire, ma perfino per il fatto di essere andata in camera sua. Se Cafiero avesse parlato male di te personalmente, capisco bene che sarebbe indegno di me, amandoti, cercare di vederlo. Ma so che ti stima e così via, non dice nulla di male. E poi mi esprime anzi il desiderio di vedermi, ma non viene solo per il fatto che vera divisione di principi fra voi altri. Dimmi, non sarebbe ridicolo, forse, se io avessi insistito di non volerlo incontrare, perché non andate d'accordo nelle idee voi altri, sebbene io con lui non ho avuto nulla. Non sapevi tu che Levashov parla male di me dappertutto e con tutti? Eppure non sei andato tu a Berna a cercarlo, non hai tu avuto delle corrispondenze con lui? Non scrivi tu, cher ami, a Pindy, che dice tante e tante cose di me? E con Bruce e con altri. Basta. Se io ti offendo di aver detto a Cafiero di venire ed esserci andata allorquando non va nulla d'offensivo per te, e se tu puoi ingiuriarmi quasi perciò, tanto Tanto peggio per te. Io alla fine vedo una cosa. Agli uomini, come sempre, è permesso tutto. La donna deve essere la loro proprietà. La frase è vecchia e banale, ma la sua ragion d'essere, pur sempre, l'avrà chissà per quanto tempo ancora. Sarà la mia cattiveria, sarà tutto ciò che vuoi che mi determina di scriverti così secco ed arido, ma io soffro immensamente. Perché io sento che la nostra vita, ma chissà come, non già come io l'ho vagheggiata e desiderata, io sono di tanta poca importanza nella tua esistenza, lo sento perché io ho bisogno di vivere. Io sono proprio disperata, fantastico mezzi di suicidio e penso con voluttà ad asfissiarmi col carbone. Forse in altri tempi, forse allora quando sentivo veramente, speravo d'essere la gran parte della tua vita, naturalmente. Non avrei mai fatto una minima cosa per dispiacerti, non sarei andata né da Carlo né dal diavolo, non perché trovo che hai ragione tu, ma perché sentivo che ti dispiaceva questa cosa. Ma adesso? Ti pare forse esasperazione quel che dico? Ma ti giuro che non va nemmeno una minima parte di tutto ciò che mi tormenta e mi agita. Io non so quel che ti scrivo, gli occhi bruciano, la testa non la sento più. Ho paura di qualche cosa, non so di che cosa. Oh, Andreino, mi ami tu? Io sento di essere il tuo tormento. Vuoi tu liberarti di me? Addio. Io ti domando non molto. Puoi scrivermi bene, se no fai come credi. Io per ora non affliggerti vieppiù, non ti scriverò più. Addio, Nina tua. Ad Andrea Costa, Lugano, 18 novembre 1880, 10 ore di notte. Leggevo tutt'oggi e tutta la sera certi giornali russi, ma stanca di leggere vengo da te. Il fuoco del camino richiama tante memorie del passato, eccita tante fantasie che prendo la pena per comunicarti tutti i pensieri che si succedono l'uno dopo l'altro nella mente, senza che io possa fermarmi. I ricordi di Parigi, di Lugano. Quando passano 2 mesi d'inverno mi riscaldano tutte, mi fanno sperare che forse non è ancora tutto finito per noi e passeremo anche questo inverno insieme. Che fare? Quelli con chi mi viene a parlare di rado è vero, ma quando parlo con essi tutti si meravigliano della nostra fermezza e mi dicono: io non sarei capace di vivere così. Mi dicono che noi abbiamo la possibilità, più che sia altro, di essere felici, eppure siamo tanto infelici, non volendo noi stessi godere del tesoro che abbiamo, del nostro amore. Io, nonostante che riconosca la verità di queste affermazioni, rispondo pur sempre che si vede che noi ambedue non siamo fatti di poter godere nella vita e ci rassegniamo tutto ciò che ci capita. Ma a te, angelo mio, ti confesso, come lo dissi ultimamente a Vera, che sono immensamente stanca, stanca moralmente di far la vita di un ebreo errante. Il vagabondaggio da 6 anni in qua mi pesa più che mai. Vorrei trovare un porto nella vita, vorrei fissarmi dovunque sia sì, altrimenti passano dei giorni, degli anni e non si vive né per sé né per gli altri. No, angelo mio, io non voglio il riposo, ma le tempeste pure non le cerco. Vorrei vivere, lo desidero con tutto l'essere mio, ma non lo posso quando siamo separati. Io sento ogni giorno maggiormente quanto sono un essere teco e la vita senza te è per me una vegetazione continua. Se fossi in Russia anche, ove sarei costretta per le condizioni stesse a fare qualche cosa, t'assicuro, te lo giuro che non sarei capace a fare la minima cosa. Se è debolezza questo mio amore per te, questa coscienza d'essere dimezzata allorquando sono divisa da te, preferisco tutte le debolezze possibili, ma sentire, veramente sentire questo fuoco interno che mi brucia, che mi inebria, che ti fa disperare, ma che ti dà pur sempre la vita interna, intensa, dolorosa, ma una vita di cuore, d'animo e di sentimento. Ad Andrea Costa, Lugano, domenica 28 novembre 1880, 11 ore di mattina. Vorrei con tutto il cuore farti del bene, renderti meno penibile la tua sorte spietata, e purtroppo pare che non lo possa fare che di rado, e più che consolarti ti tormento. Angelo mio adorato, perché nasconderti? Perché Perché non dirti anche un'altra cosa che mi fa assai male in questo tempo, nonostante tu sia tanto buono, tanto lieto e tanto amoroso? Che fare se le cose che tu senti sinceramente, dicendomele, credi farmi del bene, mi fanno alle volte del male? Forse sono esigente, forse i nostri concetti su varie manifestazioni dell'amore sono diversi, ma mi duele molto a dirtelo. Ma te lo dirò pure. Senti, vita mia. Non credi tu che io abbia ragione di sentirmi un po' offesa del fatto che tu consideri come dovere di non separarti mai da me? Perché se la mamma prima pensava a me, ora lo devi tu. È sempre la medesima cosa quando si tratta dell'incapacità delle donne, dei bambini, di provvedersi essi stessi di quel che hanno bisogno. È vero che io, disgraziatamente, per la mia posizione o per il mio passato di posizione agiata, sono un essere spostato. Tanto più essendo un paese straniero per me. Ma se fosse per questo che tu dovessi vivere meco, se fosse per un dovere abitualmente interpretato, oh Andreino, mai e poi mai abbassarmi ad una posizione simile. Se tu senti impossibile la vita senza di me, se non potrai esistere e lavorare ove non fossi io al fianco tuo, allora capisco la tua promessa, ma non parliamo di necessità materiale. Questo mi offende, come dovrebbe offendere moralmente te se io ti avessi mai detto una cosa simile. Sentiamo la necessità di non separarci mai, ma non parliamo di cose esteriori di questa necessità. Le cose esterne possono cambiarsi e non basiamoci su di esse. Prendiamo solo il nostro cuore per base d'unione se moralmente sentiremo di non poter vivere altrimenti che confusi l'uno nell'altro. Allora anche separati gli ostacoli materiali non potranno lo stesso dividerci. Voglio sentire più il cuore e meno doveri astratti, che hanno odore di regolamenti e codici mazziniani che mi ripugnano e che non posso sopportare. Il sentimento di famiglia in me si è svegliato da che ti amo veramente e vedo una prova efficacissima della profondità del tuo amore, appunto nel svegliarsi in te pure di questo sentimento. Anna. Ad Andrea Costa, Berna, 4 giugno 1882. Hai tu ricevuto la mia lettera e la corrispondenza? Ho ricevuto una lettera dal padre come pure dalla mamma. Il padre, a quanto pare, vuol far conto di non aver ricevuto quella mia lettera dove gli parlai di te e della Ninì, ma bisogna che le riconosca un giorno, siccome fra pochi giorni viene all'Occidente e vuole vedermi ad ogni costo. La mamma ti saluta e ti bacia, ma non dice se abbia ricevuto il tuo bigliettino. Sai che finalmente sarò ammessa all'università? La Ninuccia è sempre buonina, nonostante che sia assai sofferente. Ma se tu la vedessi, quant'è bellina! Non sai quanto vorrei che tu possa venire qua a riposarti vicino alla tua cara bambina. Il primo mese che potrai disporre per te personalmente, dimmelo allora, perché t'assicuro che potrei avere dei mezzi per il viaggio. Più tardi. Rimasi come atterrita leggendo la notizia della morte di Garibaldi. Io speravo che egli avrebbe almeno la consolazione d'assistere fra 2 o 3 anni ad una trasformazione sociale in Italia più consolante che non ha potuto vedere fino ad ora. Che sentimento di tristezza invade tutto l'animo nostro al pensare che una vita piena d'agitazioni, di fatti tanto gloriosi e di tanto eroismo, doveva spegnersi in un letto lungi d'Italia. Per la quale ha tanto vissuto e tanto sofferto. Che ironia della sorte. Almeno avessi vissuto finché sarebbe stata proclamata la Repubblica, ma no! Morire così ad un eroe combattente fa proprio compassione. Immagino che commozione regna in tutta Italia adesso. Deve esservi un lutto nazionale. Scrivimi spesso e vogliami bene. Ti bacio molto, molto e ti abbraccio di cuore. Tua Nina. Bacio per te, il nostro caro angelo. Ad Andrea Costa, Napoli, 4 dicembre 1884. Mio carissimo, la tua lettera buona e affettuosa mi ha fatto del bene, ma c'è sempre quei ma e se maledetti che inciampano e che avvelenano ogni gioia, ogni speranza. Io non dubito e sento che mi vuoi bene, come me l'hai voluto, come forse me lo vorrai sempre. Il guaio è solamente che questo bene, se avesse potuto rendere felicissima un'altra donna, a me, infelice e disequilibrata, Mi lascia tanto e tanto a desiderare che mi fa perfino cattiva ed ingiusta, incapace di apprezzare quel poco di bene che posso ricevere e che tu, presa alla tua natura, alle tue occupazioni ed il resto, puoi darmi. Ti ricordi una tua frase significante prima della tua partenza nel mese di ottobre, quando ti scongiuravo istericamente piangendo di lasciarmi per la tua e mia tranquillità? Tu mi dicesti: siamo infelici ambedue, e qui è la sintesi delle nostre relazioni. Tu cerchi in me il riposo, io in te la vita. Io sono per te poco donna, tu per me sei un'astrazione. Io non ho la maternità, tu non mi dai l'umano del contatto fra i sessi diversi. Tu non vuoi o non puoi capire che l'abbandono e la pienezza non sono che la conseguenza di una vita reciproca, piena di comprensione dei pensieri, dei sentimenti e delle aspirazioni. Questo concetto è una vera mosca bianca che non si è trovata nemmeno nella nostra relazione. L'uomo non sente questo bisogno. Tu, pieno di vita, d'attività, di ingegno e di ricchezza morale, proprio è naturale che non puoi sentire il bisogno di un salice piangente, i cui rami sono già piegati a toccare presto la terra. Che cosa puoi tu trovare in questa decrepitezza fisica e morale? Lo riconosco, purtroppo. Lo sento fino a piangere nel momento in cui ti scrivo, ma non voglio illudermi, non voglio illudermi. Ho portato la mia critica fino a sviscerarmi completamente e qui è la ragione d'essermi trovata come perduta. Sì, ho perduta l'illusione di me stessa, ho perduto l'illusione che possiamo mai essere soddisfatti. Tanto più che tu sai quanto in una donna un poco non volgare è forte il lato morale dell'amore. Goethe, perfino, si informa al Faust se crede alla religione, e perciò capirai che svanita questa armonia morale, questo legame non esistendo più, quanto doloroso è di conservare il convivere per semplice abitudine, per semplice memoria del passato. Adesso sento per te maggiore tenerezza, sento per te un affetto profondo, ma sento più tranquilla la mia coscienza. Quando non pretendo più di essere la tua amante e non esigo da te le attenzioni d'un amante. Dimmi sinceramente, non consideri anche tu l'amore come lo sento io? Tu sei per me sempre quello che fosti prima. Dire che sei il padre della mia salvezza, della Ninuccia, e dir tutto. Tu sai quanto poco entra la sensualità nelle mie relazioni con te. Non voglio che rimanga essa sola, l'ultima cosa nell'amore, quando non vanno tutti gli altri attributi che costituiscono l'essenza dell'amore. Non sono romantica, ma desidero la realtà umana. Questo è impossibile. Perché dobbiamo dunque battere la strada tradizionale dei mariti e delle mogli? So che sono forse crudele verso di noi ambedue, ma la critica inesorabile di 2 mesi ha maturato questo frutto. È amaro per noi ambedue e io piango. Ti bacio di cuore anche per la nostra adorabile Ninuccia. Sempre tua, Nina. Ad Andrea Costa, Napoli, 5 febbraio 1885. Mio carissimo, ieri non ti scrissi, sebbene avrei voluto dirti qualche cosa di meno triste della realtà che mi lasciasti, ma la stanchezza fu tale che andai a letto appena si addormentò la Ninuccia, la quale pianse tutta la mattina dopo la tua partenza perché voleva il suo papino. Io, per fuggir me stessa, andai alle cliniche, dove rimasi fino alle 5 di sera dalla mattina e fu un giorno perduto, giacché la mia mente vagava altrove. Che cosa darei io per poterti dire t'amo? Ma sinceramente non lo posso dire. Ho compassione di noi ambedue, sebbene sento che ti voglio molto bene e tu sai che questo bene è legato alla Ninuccia e perciò è più serio e profondo della passione stessa. Perché mi chiedi ciò che non posso darti più? Aspettiamo, fammi sentire che apprezzi in me qualche cosa altro dell'amante di un momento e se potessi sentirlo molto, cambierebbe la mia indifferenza sensuale. La notte del 3 febbraio è come il sogno più penibile che abbia mai provato. È stato un incubo di cui non posso svegliarmi ancora. Mi conforta solo il pensiero che tu stesso presto diverrai indifferente. Ne sono convintissima. È possibile che non vorrai più venire a trovare la Ninuccia? Vogliami bene semplicemente. Vogliami bene come ad un'amica. Puoi farlo? Scrivimi se puoi, mi farei sempre gran piacere. Ti bacio per la Ninuccia e ti abbraccio di cuore, tua Anna. Napoli, 14 febbraio 1885. Mio caro, giovedì ti scrissi a Imola e spero che avrai ricevuto quella mia. Tardavo di rispondere alla tua che mi scrivesti prima di lasciare Roma perché mi sentivo poco bene, come non mi sento bene nemmeno adesso. Ho la bronchite, un po' di febbre e soprattutto sono vuota di una vacuità che fa spavento. Perché se dovessi progredire in questo stato, l'imbecillimento sarà inevitabile. Che cosa posso scriverti io? Le litanie annoiano, le note gaie non mi sono concesse e ciò che è peggio, non le desidero nemmeno. Sono soddisfatto, o meglio, non sento più nulla quando il facchinaggio delle cliniche mi stordisce alquanto con la spossatezza del lavoro faticoso. È una soddisfazione triste, è vero, è una specie di ubriachezza dell'oblio di se stessa, ma non ho più attitudine ad avere o sperare d'avere delle soddisfazioni positive e piglio con compiacenza amara il negativo. Ripeterti per la millesima volta ciò che ci ripetiamo da anni ed anni è una crudeltà verso noi ambedue. Lasciamo le piaghe senza toccarle e senza irritarle. Non guariranno se va già l'esaurimento generale. Io non credo più alle tenerezze che tornano. In queste tenerezze scorgo qualche cosa di offensivo. Mi sento il desiderio della specie, non sento l'unione umana. Il tuo volere accarezzare la mia testa non mi riscalda la testa. E questo si può fare ad ogni donna non brutta e non cretina del tutto, ed io sono stupidamente orgogliosa. Non posso soddisfarmi del solo ricevere e dare dei baci e delle carezze. E l'ultima tua visita, se non fosse stata accompagnata da un'insistenza continua del desiderio del possesso materiale della mia avvizzita carne, avrei creduto che mi sbaglio, ma purtroppo ho sentito, ed il sentimento fu la base della convinzione che senza avvertirtene tu cerchi in me la femmina, ma non la donna. Non ti accuso né punto né poco, ognuno raccoglie quello che ha seminato e so benissimo che se non mi ami come vorrei essere amata è più colpa mia che tua. È l'impotenza che cerca il tributo che appartiene alla forza, sono bisogni sviluppati fuori della nostra capacità di poterli soddisfare, ma comunque fosse non sarà forse la colpa di nessuno di noi due. E noi siamo sotto il colpo della fatalità, stupida parola, o della nostra spensieratezza. Se tu volessi venire il 22 di febbraio, siccome sei invitato al concerto, avrò piacere, ma per carità, non cercare in me l'amante. Vieni per la Ninuccia che ha un altro amore e sola essa potrebbe bastarti per confortarti nella tua venuta a Napoli. Sono nell'impossibilità adesso di togliermi il paltò dovunque io andassi, perché le vesti sono rotte e tu non mi dici una parola di che cosa ti disse la Marcellina. È una vera noia. La testa mi brucia e il petto duole come se fosse lacerato. Che delizie! T'abbraccio e ti bacio per la Ninuccia, tua insipida e lagrimosa Anna. Rispondimi. Ad Andrea Costa, Como, 4 luglio 1885. Sono imbarazzata a scriverti perché debbo transigere con la mia coscienza dandoti un resoconto dettagliato della mia vita. Non volevo parlarti di me. Non so perché io senta necessità di nasconderti alcuna cosa, ma perché mi ripugna di subire una tutela continua e non sento l'obbligo di render conto delle mie azioni quando i diritti reciproci determinati dall'affetto non esistono più. Ma tu, a quanto pare, sei preoccupato dell'eterno qu'en dirait-on e non ho alcuna difficoltà a tranquillizzarti, assicurandoti che mentre la mia dignità mi preoccupa assai di osservarla, la dignità tua non è. Non sarà lesa da nessun atto della mia vita. Mi meraviglio che tu mi accusi di nuovo senza fondamenti di ipocrisia. Tu che sai, per tua esperienza, quanto sia facile accusare ingiustamente basandoti su qualche semplice apparenza. Ti ripeto di nuovo che venni a Milano senza alcun programma preciso, ma con la sicurezza che o la Ravizza o qualche sua amica avrebbero combinato le cose in modo che io potessi ristabilirmi in salute e, se possibile, continuare gli studi clinici in qualche ospedale. La Ravizza partiva per il Belgio, il suo progetto di recarsi meco a Meina andò in fumo, allora mi stimai fortunatissima di accettare la proposta di una carissima signora russa, la signora Oktomowski, di accettare per 2 o 3 mesi la sua ospitalità nelle vicinanze di Como, dove avrei potuto non solo godere la compagnia, ma frequentare pure l'ospedale, la poliambulanza e qualche ambulanza di medici privati. La mia vita si passa infatti parte in casa e parte agli ospedali, dove ebbi finora le più cordiali accoglienze, mentre la mia salute migliora e la Ninuccia si trova in ottime condizioni, amata e carezzata da tutti, alla compagnia di altri bambini e vive quasi tutto il giorno nel giardino. Qui vivo come vivevo dappertutto, cioè come Kulishov. A Napoli non fui già io che feci credere che Costa fosse mio marito, anzi dappertutto facevo capire che non lo sono e gli studenti perfino mi chiamarono sempre la signora Kulishov. È vero che dinanzi alle padrone di casa ti chiamavo mio marito per rispetto alle loro opinioni e perché non sempre si può rispettare l'opinione della gente da cui si vive non per altruismo certo, ma per pure semplice egoismo. Così, qui dove i nostri rapporti non sono conosciuti o rammentati, non credevo e non credo necessario di parlare delle nostre relazioni passate, che del resto parrebbero uno scandalo alle persone fra le quali vivo. La tua venuta quindi sarebbe estremamente inopportuna per ambedue e mi metterebbe in condizioni difficili. Nell'accoglienza che in queste condizioni potrei farti sarebbe piacevole a te dinanzi a questo mondo di cui ti preoccupi tanto. Sei rimasto tante volte per molti mesi senza vedere la bambina, mi pare che potresti aspettare anche questa volta fino al mio ritorno a Milano. Se però tu volessi assolutamente vedere la Ninuccia, non sarebbe altro modo che passare qualche giorno dopo il mio ritorno dall'Austria, ove andrò fra giorni e trovarci per il giorno stabilito a Milano. Tu parli di ipocrisie e dignità minacciate. Io mi domando se sarebbe meno ipocrita o più dignitoso di continuare dinanzi agli altri l'apparenza della nostra unione che in realtà non esiste più. È certo che non mi sarà possibile di regolare ogni mio passo secondo i tuoi desideri. Dovrei allora rinunciare alla mia libertà, simulare una soggezione che non è umiliante soltanto quando è reciproca e determinata dall'intensità dell'affetto. Non vorrei che queste parole ti suonassero amare mentre ti scrivo tutto ciò per compiacere ai tuoi desideri e calmare i tuoi timori. Né io né te abbiamo colpa di quello che è stato conseguenza dei nostri temperamenti e delle condizioni in cui vivevamo. Ma certo, avremmo colpa se volessimo ribellarci contro la fatalità che sono conseguenze del passato e voler mascherare vincoli artificiali. Se il tuo desiderio, che sarebbe meglio di essere morti l'un per l'altro, non è realizzabile per quella parte di legame che mantiene fra di noi la bambina, credo che possiamo almeno soddisfare a quel diritto di libertà individuale e a quel bisogno di sincerità che nelle nostre idee e nei nostri sentimenti. A questo patto anche il raffreddamento non genererà disgusti. Non ucciderà, spero, la benevolenza. E con questo desiderio ti saluto e ti stringo la mano. Anna. Ad Andrea Costa, Milano, 27 dicembre 1896. Carissimo, io avrei preferito di scriverti proprio per il giorno primo dell'anno, ma vedo che la figliuola vuol fare la nichilista e infischiarsene delle date convenzionali. Avrà ragione essa, poiché nelle ribellioni agli usi e costumi hanno sempre più ragione i giovani. Hai visto l'avanti come si dibatte in 100.000 difficoltà? La stampa, la carta e lo stesso impasto lasciano a desiderare, ma lasciano anche sperare che cammin facendo migliorerà. Vorrei avere tue notizie un po' meno in stile telegrafico, ma non posso pretendervi, perché anch'io sono piuttosto avara nello scrivere. Quando vieni? Dal mese di luglio non t'ho più visto. La tua dichiarazione antimonarchica ed il tuo atteggiamento leonino alla Camera furono ammirabili. Saluti affettuosi. Scrivi, tua Anna. Alle donne italiane, inizio 1897. Fra pochi giorni una parte del popolo si recherà alle urne per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento. Ciascuna classe, ciascun partito si agita, cerca di intendersi, di far propaganda attorno a sé per far emergere chi meglio rappresenti e possa difendere i suoi interessi, fare leggi a suo favore, giudicare, sostenere o abbattere il potere esecutivo che le leggi fatte applica in modo piuttosto che nell'altro. Noi donne siamo totalmente escluse da questa gara. Noi, secondo la presunzione che informa la legge, Non abbiamo interessi da difendere, scopi da raggiungere, idee da patrocinare e da mandare avanti. Lo statuto del regno parla di cittadini tutti uguali davanti alla legge, che devono tutti godere uguali diritti civili e politici. È evidente dunque che noi non siamo cittadine. Siamo delle straniere nel nostro paese, siamo la cosa degli altri, di alcuni altri, il loro strumento, ed è per loro benignità che possiamo vivere e respirare. Non è questa del resto in Italia la condizione delle sole donne. La maggior parte del proletariato, anche maschile, soffre lo stesso trattamento. Donde viene questa grande ingiustizia, questa assurdità manifesta in un paese che si vanta fondato sulla sovranità popolare, mentre si dice che lo Stato rappresenta tutta la società e che l'antica schiavitù è stata abolita? Chi ci pensi un po' su non farà fatica a trovarne la ragione. Solo le classi abbienti, che nella loro enorme maggioranza hanno in mano l'arma del voto e ne conoscono il valore. I ricchi, gli agiati, e i loro satelliti, agenti d'affari, sono elettori quasi tutti. I poveri, i lavoratori non lo sono invece che per eccezione. È naturale che coloro che di quest'arma hanno così il monopolio non vogliono cedere ad altri la prevalenza e si sentono che senza questo privilegio il loro predominio politico ed economico, che vive dello sfruttamento illimitato della classe lavoratrice, di gran lunga più numerosa, non potrebbe molto durare. È la prima volta che anche noi donne sentiamo il dovere di risvegliarci in occasione della lotta elettorale. È passato il tempo che la donna non attendeva che alla famiglia e viveva al di fuori di tutte le lotte che agivano la società moderna. Una volta si poteva dire che la donna era destinata al fuso e alla cucina, ma oggi vedete come le cose sono mutate. E non sono mutate per volontà nostra, per nostro capriccio. È l'andamento fatale delle cose, è lo sviluppo della società che ci ha balestrate, magari noi riluttanti nel mezzo della mischia delle idee e degli interessi pubblici. Oggi, chi volesse, come una volta, confinarci nel regno della casa, sembrerebbe uno dei sette dormienti che si fosse risvegliato a un tratto dopo qualche secolo di sonno. Oggi, ben poche cose di noi hanno una casa ed una famiglia, la macchina, la grande industria, il grande magazzino, la trasformazione generale, insomma, in senso collettivo dell'economia sociale, ci ha strappate al focolare domestico e ci getta nel vortice della produzione capitalistica. Con ciò, il centro di gravità dei nostri interessi è trasportato di necessità dalla vita di famiglia nella vita sociale. Altro che il regno della casa, le sollecitudini della famiglia. Ma c'è assai di peggio. In tutte queste industrie dove la donna o lavora da sola o concorre al lavoro con l'uomo, essa è sfruttata e martirizzata assai più che non lo siano i lavoratori del sesso chiamato il più forte. Ed è naturale, è appunto perché è più forte, più avvezza alla lotta, più cosciente della propria dignità e del proprio interesse, che il suo sfruttamento è meno illimitato del nostro. Noi siamo più docili, sembriamo destinate a tutto sopportare. Chi deve fare oro del nostro lavoro, della nostra gioventù, del nostro vigore, è ben naturale che ne approfitti. E taccio delle nostre compagne che rimasero nei campi, delle mondine del riso, il cui sangue, oltre che dall'eccesso del lavoro, è succhiato dalle sanguisughe che si appiccicano alle loro carni, è infettato dalla malaria che le sbatte gialle e rigonfie sui covili che servono loro da letticciolo. No, questa delle donne lavoratrici non è più una vita, è un martirio lento, è un assassinio collettivo. Eppure, o morire di questa morte o languire di inanizione. E pazienza, fossimo noi sole a soffrire, a intisichirci, ma la società che ci sfrutta è punita del delitto che commette. L'anemia che ci impoverisce il sangue, la rachitide che ci deforma le membra, la denutrizione che ci fa vecchie nel fiore dell'età, si trasmettono ai nostri figliuoli, ai futuri cittadini, a tutta intera la razza dei lavoratori. I nostri uomini si uniscono qualche volta in leghe di resistenza e tentano con la solidarietà, con l'essere uno per tutti e tutti per uno, di strappare qualche miglioramento della loro sorte all'avidità del capitale. a noi, più deboli, più sottomesse, anche questo di rado riesce. E la nostra passività, la nostra apatia, la nostra incoscienza rimbalza sul proletariato tutto quanto e recide i nervi alla lotta di classe che esso deve combattere. Un tempo, quando le donne operaie erano scarse, i nostri uomini facevano la lotta con le proprie forze, lotta aspra ed impari, ma che pure dava loro qualche vittoria. Oggi, che noi pure dovremmo essere con loro e non partecipiamo alla loro battaglia, essi sono come un esercito che dovesse trascinare dietro un immenso ingombro di vecchi, di infermi e di bambini. Reclamate. 1. Le 8 ore di lavoro. 2. Al lavoro uguale, uguale salario. 3. Libertà alla donna di disporre della propria mercede. 4. Astensione dal lavoro industriale ed agricolo negli ultimi 2 mesi di gravidanza e nei 2 mesi successivi al puerperio. Il vostro interesse di salariate, il vostro dovere di spose, di sorelle, di madri, vi spinge nell'arena politica, un tempo riservato ai soli uomini. Sappiate prendere in essa la posizione che vi spetta. Questo e dell'altro, ben dell'altro, noi dovremmo ottenere. Ma per ottenerlo ci manca la prima condizione, ci manca, come a gran parte dei nostri uomini, il diritto di voto. E quel che è peggio, la maggioranza di noi non ne sente il valore. Noi siamo come i minorenni, come i pazzi, come i condannati per delitti infamanti che hanno perduto il diritto di cittadinanza. Ma i pazzi, i minorenni, i galeotti, sono fuori del cerchio della vita sociale ed essi non incombono le responsabilità e i doveri che incombono a noi. I diritti, badate, sono di chi se li sa conquistare. Il socialismo è anche una soluzione morale. È esso che, introducendo la giustizia e l'eguaglianza fra gli uomini, vincerà l'egoismo feroce che al cuore della donna ripugna. Esso solo sopirà gli odi infecondi e le guerre di classe e di stati che ne abissano tanta parte della ricchezza sociale. Per esso i deboli, gli afflitti, che il privilegio e non la natura costringe alla fiacchezza e nell'afflizione, saranno elevati e riabilitati. E sarà alfine cancellata la vergogna, vergogna nostra, vergogna comune, per cui vi hanno donne ed uomini che possono fare oggetto di mercato anche il più geloso e delicato dei sentimenti, quello a cui è affidata la generazione e la rigenerazione della schiatta umana. Per la prima volta l'umanità sarà liberata, gli uomini, i lupi, e agli uomini agnelli subentreranno gli uomini uomini, il consorzio dei liberi e degli eguali. Ma per questa battaglia, per questa vittoria, l'unione di tutti gli opposti non è certo di troppo. Se una metà dell'esercito manca all'appello o diserta, la battaglia può essere perduta. O compagne, o reiette, o dimenticate, o vittime eterne, levatevi, o schiave, siate cittadine, o femmine. Sappiate essere donne. A Filippo Turati, 1 settembre 1898, verso le 5, pomeriggio. Ho visto da lontano come si è oscurato il tuo sguardo, mio Filippo caro, quando hai sentito che per oggi non ci hanno rilasciato il permesso di vederci. L'ultimo nostro colloquio fu tanto triste. Speravo che ti avessi visto ancora, almeno 2 o 3 giorni in fila, prima della nostra separazione, chissà per quanto tempo, ma neppure questo. Come ho pianto, tornata in cella. Come mi sento avvilita, non per noi, ma per altri. Avrebbero il potere, se non altro, di lenire un po' i nostri dolori, che in questi giorni diventano sofferenze intollerabili, ma pare che non bastano le nostre condanne, non basta la sventura nostra, che ci peserà chissà quanti anni sulle spalle. Bisogna che tutto sia inasprito ancora con un sovrappiù di sofferenze prima di seppellire del tutto. È il colmo della raffinatezza. Che cosa dirti, mio tesoro caro? Le lacrime mi velano gli occhi, non vedo neppure quel che scrivo, eppure sento il bisogno di sfogarmi, di piangere con te. Capisco che è inutile l'imprecare, è inutile il piangere, è inutile tutto, tutto, anche lo stesso soffrire, ma purtroppo non sempre è la ragione che vince. Ci sono dei momenti che la ribellione interna è più forte di noi, si impadronisce despoticamente dell'animo nostro e ci fa scherno di noi come se fossimo fantocci. Che cosa c'è di più tragicamente ridicolo della ribellione fra le sbarre e il catenaccio? Chiniamo il capo, povero mio Filippo caro. L'avremo da chinare ancora non una volta, ma due, ma mille volte. Prepariamoci a tutto. Come di frequente mi risuona ora negli orecchi un certo canto, anzi un lamento, di Bakunin, da lui composto nella fortezza di Pietro e Paolo. C'era tutto in quell'aria lamentosa, dolore e sdegno, fierezza e ribellione, forza ed impotenza, già vecchio quando ce la cantava noi, appena sbocciati, gli occhi gli si riempivano di lacrime. Bakunin fu un gigante, eppure dopo tanti anni piangeva ancora delle sofferenze patite. Non vergogniamoci di piangere, mia vita cara, mia anima, mio tutto. Se non si piangesse, sarebbe qualche volta romperci la testa al muro, e questo sarebbe molto peggio. Addio, mio caro mesto, mia dolce speranza. Chissà se ci vedremo ancora. Non ne spero più nulla che ci venga da altri. Confido solo in noi, nel nostro affetto, nel nostro avvenire. Ti bacio, bagnando il tuo caro viso di lacrime. Tua Anna. A Camillo Prampolini, Milano, 31 agosto 1898. Grazie, carissimo Prampolini, della vostra affettuosa lettera. So anch'io che i nevrotici sono resistenti assai e superano tutti i disagi, pur soffrendo di più degli altri. Ma se non temo per Filippo una qualche catastrofe, temo però molto che l'iperestesia psichica non gli cagioni delle vere alterazioni mentali. Speriamo, speriamo che tutta la burrasca passerà senza portare grandi danni, senza lasciare rovine di qualsiasi genere. Questo mio saluto a voi, caro amico, è l'ultimo. Ci rivedremo dunque di sicuro nel 1900 e vi impegno fin d'ora di venire a farci quella tale e tanto sospirata visita che non avete mai trovato il tempo di farci. Dico a noi perché spero fermamente che nel 1900 anche Filippo rivedrà il sole ed usciremo ancora abbastanza forti fisicamente e saldi moralmente da continuare il nostro lavoro e riprendere il nostro posto ora per forza abbandonato. Sentite, caro Prampolini, voi sapete che non sono ipocondriaca, che non sono portata all'esagerazione dei miei malanni fisici, anzi sono fatalista e piuttosto fiduciosa della mia resistenza. Ma dall'altro lato sono osservatrice e sono medico. Vedo che i sintomi dell'ideremia si aggravano. Temo che il medico, per rassicurarmi, non mi dica tutta la verità, asserendo che non vi siano alterazioni renali. Casomai, dunque, che il mio stato si aggravasse, lascio a voi, a Leonida, la tutela della mia dignità. Vi prego, a mani giunte, di opporvi a qualunque passo che si volesse fare per ottenere la mia libertà con una grazia personale o con un indulto speciale. Impedite a chi che sia, per amore di chi che sia, fosse anche di mia figlia, che mi sia fatta un'offesa morale. Se dovessi conquistare la libertà a questo prezzo, sarei tanto avvilita, tanto diminuita, tanto degradata, che nulla mi sarebbe la libertà, l'affetto dei miei cari e l'affetto degli amici buoni. Questa, caro mio Prampolini, è l'unica preghiera che rivolgo agli amici, prima che si richiuda la nostra tomba. Voi però potrete scrivere, mi farete sempre piacere. Lo sapete anche voi quanto bene vi voglio. Bacio alla bambina, salutatemi la sorella e gli amici. Vi stringo le mani con affetto, vostra Anna. Ad Andreina Costa, 22 ottobre 1898. Stralci. Come vorrei che si sviluppasse in te quella tenerezza naturale che fa molto perdonare agli altri, facendoci esigenti solo verso noi stessi. Non dire, mio amore, che ti faccio delle prediche. No, cara, penso ad alta voce. Ti dico ciò che ripetevo a me stessa più ancora alla tua età che adesso. Credimi, mia cara, la più grande soddisfazione per l'animo nostro è la devozione, l'abnegazione e la gratitudine. Ricordati, Ninina, prima di attirarti contro uomini e contro cose, di dare uno sguardo nel profondo dell'animo tuo, e vi troverai spesso molte attenuanti che volgeranno l'ira a pietà o compassione. 25 ottobre 1898. Salutami tanto Prampolini e digli che fanno male di chiedere l'amnistia sventolando sempre i nomi dei grandi uomini, che si ricordino un po' dei 600 e più minorenni condannati dai tribunali militari e delle donne alla reclusione sino a 5 anni. Già, la mia specialità sono le donnette di fanciulletti e mi perseguita anche qui in carcere. Ma sì, È giusto forse che si versino tante lacrime per la sorte di noi e non si ricordino il martirio ignoto di tanti disgraziati deboli, impotenti e non difesi da nessuno. E le donne, sanno il dovere della galera, potrebbero almeno avere il diritto che il loro sacrificio serva. A Filippo Turati, Milano, 1º gennaio 1899, da casa del tuo nostro studio, ore 2:30 pomeriggio. Mio Filippo, mio tesoro caro, appena lasciata la mia cella che abbandonai con malinconia, dove è rimasta una parte della nostra vita, una parte di noi, dell'anima nostra, rividi la libertà attraverso le lacrime. Sapevo che la libertà mia non sarebbe che un quarto di libertà, 3/4 di me stessa sono lontani, non sapevo, non immaginavo di poterti vedere presto e attraverso la nebbia ti vedevo come un'ombra da lontano. Sino alle 7:30 di sera. Ero già preparata a rimanere dentro, perché pareva che l'indulto non si possa applicare a me per le condanne subite durante le leggi eccezionali. Quando tutto inaspettato giunse il direttore annunziandomi la libertà. Ora mi pare che siamo al principio della fine e presto, presto cominceremo la nostra vita in due, lavoreremo insieme ed avremo una nuova fioritura di gioie e di speranze. Ti prevengo che sono invecchiata. Sono magra, sono come un'ombra dell'Anna che hai lasciata piangente al 3 settembre, ma potrò vederti di frequente e mi rimetterò presto. Oggi, quando la povera mamma mi diede questa notizia, piangeva dalla commozione. Non immaginavo che potrò rivederti dopo domani o ad al più tardi mercoledì. Io sarei corsa da te anche oggi, ma fra la mamma e la ninetta rimango schiacciata dalle prediche. E vedi come sono ubbidiente. Aspetterò altri 2 giorni per non mostrarmi troppo ostinata. Sai come sono. È la nebbia, è la mia faccia sparuta, è la debolezza. Bisogna presentarsi con un viso più decente al povero Filippin e mi lasciai convincere di partire mercoledì. Sono come ubriaca. Da ieri alle 9 di sera sino a quest'ora, fuori delle ore del sonno dall'1 alle 8, la casa è piena di gente e ti lascio immaginare la stanchezza. Gioia, mia cara, non sto nella pelle della gioia di rivederti. Dopo partita, la ninina per Roma, 9 gennaio, verrò a stabilirmi vicino a te per molte ragioni. Prima per rimettermi al bel sole, poi per stare più di buon umore essendoti vicina ed infine per fuggire da Milano perché temo l'assiduità della buona gente che va e viene e la questura forse se ne andrebbe a male. Figurati che io sola non sono passata in questura prima di essere liberata, mentre tutti gli altri dovevano presentarsi per le ammonizioni sacramentali del questore. Per tutte queste ragioni personali e politiche preferisco di stare là, vicino a te, tutta sola. Leggeremo le stesse cose, ci scriveremo ed il tempo passerà presto. Ah, se volasse addirittura. Ti scrivo in mezzo al chiacchiericcio di Rubro, al Binè, Gavirati ed altri. La ninetta va e viene per tormentar con baci la sua madre e non siamo soli. Non so neppure quel che ti scrivo. Ma questo importa poco. Quel che ho da dirti, e non te lo dico, lo sento, non è vero, anima mia cara. Senti come tutta la mia esistenza è là, fra le mura rosse di Pallanza, che la mia vera ed intera libertà non comincerà che con la tua liberazione. Senti, non è vero, tutta la tenerezza profonda, l'affetto immenso che mi furono il solo sostegno durante questi mesi, da che partisti tu. Non potei far nulla. Non ebbi calamaio sino alla fine di novembre. Non ho potuto neppure scriverti come desideravo per serparti le lettere quando saremo insieme. Ma ciò non importa. L'importante è che presto ti vedrò, ti bacerò, ti parlerò, vivrò della tua vita. Con tenerezza tua sempre, Anna. A Filippo Turati, 26 gennaio 1899, ore 11 del mattino. Desidero tanto vederti, caro mio Filippin, e non mi importerebbe di vederti anche una sola volta. Che cosa importa che fosse solo una mezz'ora? La prima volta, dopo la separazione assoluta di 4 mesi, quel tal colloquio mi riuscì dolorosissimo. Ma ora mi pare che sia ristabilita la corrente elettrica e le comunicazioni a distanza, anche senza la tua corrispondenza diretta, avvengono in via telepatica come al cellulare di Milano. Te ne ricordi? Pare che, come se fosse già passato un'eternità. Ma la telepatia oramai non mi basta più. Voglio vederti. con la tua faccia da delinquente e non basta il tuo perispirito che gentilmente venne a trovarmi stamattina prima che mi svegliassi. Perciò, senza preavvisi, uno di questi giorni piova, nevica e tempesti verrò ugualmente. Sai, Filippi, che vado per il 10 febbraio a Torino per assistere al matrimonio Paola Carrara? Non ridere, ti prego, non sarà il primo matrimonio a cui assisterò e non posso esimermi perché ne ho piacere come se si sposasse la mia figlia maggiore. Quanto male mi dici di questa cara figliola? Scrivi in italiano, ortograficamente un po' meglio di me. I bozzetti sono troppo in manica di camicia, i figliuoli speri li farò meglio, ma ciò grazie al marito e via via di questo passo. Insomma, con tutta gentilezza, le dai una patente di vera deficienza. Povere donne, ma sai che voler fare le eccezioni soltanto delle donne che vi sono legate per sangue o per elezione è un sintomo di enorme vanità. Ferri, in una sua recente polemica, feroce e volgarissima, con Colaianni, parlando di sé, e non può mai farne a meno, eresse addirittura un piedistallo alla sua genitrice. E pur chose, giacché si suppone che i figli maschi portano l'eredità in linea materna, dimenticando poi che l'eredità materna riproduce le somiglianze della linea maschile della famiglia materna. Ma questo non importa. Per essere grandi uomini bisogna che le madri siano eccezionali. Poi viene la Milla. Questa è il suo alter ego e così via, mentre che anche per Ferri le donne valgono poco niente. Sono quantità del tutto trascurabili nella vita sociale e non ci sono che le sue donne. Cari signori, quanto mi fate ridere. Prima mi stizzivo, ora sorrido. Tutte le donne sono madri di qualcuno, salvo poche eccezioni. E quindi il criterio che di madre non ce n'è una sola dovrebbe suggerirvi, se non altro per pudore, di non sprezzare tanto queste povere donnette. Capirei che si possono diminuire gli entusiasmi pensando che purtroppo ogni madre è anche una suocera e penso che mi tocchi anche a me fra pochi anni esserlo un po'. Mi raccomanderò però a tutti i costi di esserlo il meno possibile e spero che ci riuscirò. Non parlarmi dunque male delle donnette, tanto più che per quanto noiose, come tu dici, va là, non ti dispiacciono le lunghe corrispondenze della Paola, Gina, Ersilia, Venco, Giuseppina, la Ranella e di certa Sofia, che non so pur chi siano, no? Non buttarmi giù troppo il gentilsesso, perché per quanto tu voglia fare eccezioni, mi sento troppo donna, malgrado i complimenti sulla mia virilità. Das ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu. È una vecchia storia, ma resta sempre nuova. Ma Heine, appunto, per questo rinnovava i suoi amori. Per quanto storia vecchia, ogni nuovo amore fu sempre una novità. A Filippo Turati, Milano, 8 febbraio 1899, ore 2 del pomeriggio. Figurati che la prima seduta del congresso giornalistico del 5 aprile sarà inaugurato da Sua Maestà, certo, non avrebbe assunto un compito così difficile se non avesse intenzione di rilasciare tutti i giornalisti reclusi. Sogno già che andremo a Nizza, a Cana, a Monte Carlo, godremo il sole, chiacchiereremo, avremo tante cose da raccontarci. Che bellezza! Mi pare di ritornare giovane con questa differenza in meglio, che la gioventù non ha coscienza esatta delle sue gioie, rivivendo giovani. Tutto si apprezza e si gusta con molto maggiore soddisfazione. Guarda, ti prometto persino la giovinezza, cosa addirittura sbalorditiva date le mie rughe e i suoi numerosi quintali di adipe. A Filippo Turati, Salso Maggiore, 22 ottobre 1903, pomeriggio. Mio carissimo, la tua lettera è triste, ma buona ed affettuosa. Tu hai tutte le ragioni, ma anch'io non ho torto. Dopo aver pianto, dopo aver crudelmente analizzato me stessa, dopo aver attribuito a me stessa tutti i torti, non so però pentirmi. Non ho da pentirmi di niente, è una specie di fatalità che ci perseguita fin dal primo giorno del nostro incontro. Ti ricordi il cimitero di Napoli? Tu sorridendo confessavi che il tuo incontro anche con me è sempre la stessa cosa, ed io piangendo ti pregavo di lasciarmi volerti bene. Le mie ricorrenti ipocondrie sono un segno che la vecchiaia non ha spento ancora in me tutte le ribellioni della giovinezza. Non so pentirmi di questo peccato. Il pentimento senza ravvedimento è semplicemente debolezza, e questo genere di debolezze isteriche sono degne di compassione. ma si perde anche la stima per chi le possiede. Le mie malinconie ricorrenti non sono dunque né ipocondrie, né isterismi, né cattiveria, forse sono semplicemente un ardente desiderio di averti un po' più per me. Ciò che accade ben di rado. Mi vergogno a dirti queste cose perché vedo già il tuo sorriso canzonatorio, leggo nella tua mente certe frasi in milanese che gettano il ridicolo su tutto, ma cosa vuoi? Non ho mai saputo, neppure ora, alla mia tenera età, che cosa sia saggezza. Non so tacere e sorridere quando ho la gola stretta dal pianto, parere serena quando sono tormentata da sentimenti contraddittori ed angosciosi, e ci vorrebbe tanto poco per rendermi felice. Il guaio è che va un punto scuro nella diversità del nostro sentire. Io so che tu mi vuoi bene, non ne dubito, ma non basta di voler bene, bisogna sapere anche voler bene. Capisco che può darsi che è semplicemente questione di indole. Ma spesso mi viene il dubbio, ed è questo che mi tormenta e mi rende desolata, che forse un'altra avrebbe saputo ispirarti un affetto più caldo e sarebbe più degna di te di quello che non lo sono io. E bada che te lo dico senza acrimonia, senza rimprovero, senza rabbia. Ti giuro che forse mai nessuno ti abbia voluto bene quanto te ne voglio io, e forse questa è la mia disgrazia. Lontana da te, avendo già radicato il dubbio che forse meglio sarebbe per te che io scompaia e che tu possa incontrare ancora una donna che sapesse renderti veramente felice, la minima tua indifferenza verso di me si ingigantisce e si pianta là fra noi due come uno scoglio insormontabile. Che colpa io ho di sentire così? Che colpa ne hai tu di non capire questi bisogni dell'anima? Tu ti meravigli come mai il non aver trovata una mezza giornata di venire a Salso abbia potuto cagionare tanti dolori, farmi piangere tanto e determinare la tragedia per così poco. No, mio caro, non ho nessuna intenzione di essere ridicola come le vecchie che si ornano di colori vivaci. Sono semplicemente infelice con molte rughe in faccia e con molte illusioni nell'animo. Partendo mi promettevo come una bambina alla gran festa d'averti già almeno per poche ore, accarezzando tanto questo modesto desiderio che mi vergogno persino a confessarlo. Fu questa speranza che mi indusse di partire per Salso Maggiore. E poi, dopo pochi giorni, ho capito che la tua promessa l'hai fatta come prometti altre cose a persone strane, tanto per liberartene. E mi permisero una tristezza, uno sconforto da piangere ed ho finito ancora per dar torto a me stessa, accusandomi di romanticismi stupidi che ormai hanno fatto il loro tempo. E qui ho finite le mie confessioni. Dopotutto ci vogliamo bene, come pochi forse si sono mai voluti. Bisogna che acquisti un po' di saggezza di saperti celare quando sono amareggiata, o forse ciò che sarebbe meglio con la vecchiaia verrà anche quella serenità che fa apprezzare l'amicizia ed anche un piccolo angolo nel cuore a chi si vuol bene. E ti bacio con tutto cuore, vogliami bene un po' per me stessa, con tutti i miei difetti e con tutte, se vuoi, stramberie. Addio. Dopodomani alle 3 parto. In posta la lettera prima del pranzo. Tanti baci, tua Anna.